Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 7 di Giovanni? Capitolo 7 di Giovanni. Leggerò alcuni versetti, precisamente leggerò i versetti che vanno dal primo al nono versetto. Così è scritto: dopo queste cose Gesù andava attorno per la Galilea, non voleva andare attorno per la Giudea perché i giudei cercavano d'ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina, perciò i suoi fratelli gli dissero: partiti di qua e vattene in Giudea affinché i tuoi discepoli veggano anch'essi le opere che tu fai, poiché ognuno fa cosa alcuna in segreto quando cerca d'essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai codeste cose, palesati al mondo, poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo ancora a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette loro queste cose, rimase in Galilea. Dunque, vorrei con questa mia predicazione spiegarvi l'odio del mondo verso Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E lo farò basandomi su queste parole di Gesù: il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Dunque, Gesù ha detto che il mondo lo odia. E ha detto anche la ragione di questo odio. La ragione, il motivo per cui il mondo lo odia. Quello che Gesù disse ai suoi fratelli che a quel tempo non credevano in lui vale naturalmente ancora oggi. Benché Gesù non sia più in carne e ossa sulla terra, perché egli, dopo essere risuscitato, apparve ai suoi discepoli e fu assunto in cielo alla destra del Padre. Benché Gesù oggi sia alla destra del Padre nei luoghi altissimi dove intercede per noi, bisogna sempre considerare che l'odio del mondo verso Gesù non è cambiato, è sempre lo stesso. Quindi, noi sappiamo che il mondo odia Gesù. E Gesù ci ha detto pure il motivo. Perché io testimonio di lui, cioè del mondo, che le sue opere sono malvagie. Ora, noi viviamo in mezzo ad un mondo che giace tutto quanto nel maligno. Guardandoci attorno non possiamo che vedere la grande malvagità che impera sulla terra. L'iniquità si sta moltiplicando sempre di più. Perché c'è questa estesa malvagità sulla faccia della terra? Perché le opere del mondo sono malvagie? Perché il mondo giace tutto quanto nel maligno. Il mondo è sotto la potestà di Satana, l'avversario. Il seduttore di tutto il mondo, perché il principe di questo mondo è anche il seduttore di tutto il mondo, perché seduce il mondo affinché il mondo sia dato al male. E noi lo vediamo, il mondo dato al male. Le abominazioni, le perversioni, le ingiustizie, le atrocità, le crudeltà, le stoltezze, insomma, il mondo è caratterizzato veramente dalla malvagità, perché il mondo giace tutto quanto nel maligno. Ecco perché le opere del mondo sono malvagie, perché il mondo giace tutto quanto in colui che è il maligno, il malvagio, che è appunto il diavolo. Quindi Gesù ha detto che le opere del mondo sono malvagie. Quindi questo mondo bisogna considerarlo come lo considera Gesù, un mondo malvagio. Non è un mondo buono e non è neppure un mondo che tende a migliorare. Sapete, ci sono quelli che pensano che il mondo migliorerà. Lavoriamo per il miglioramento del mondo. Chi ce lo dice questo? Ce lo dicono i massoni. Anche i massoni che si trovano nelle denominazioni evangeliche operano per, diciamo, affinché il mondo migliori. Ma il mondo è mai migliorato in questi millenni? A me risulta che sia peggiorato e che stia peggiorando sempre di più. Io so questo, che quello che la Sacra Scrittura dice è la verità. Allora la parola di Dio dice che i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Allora, se il mondo è composto da uomini malvagi, è evidente che il mondo andrà di male in peggio. Infatti le cose stanno andando di male in peggio. Quindi quale miglioramento può mai cercare il cristiano? Il cristiano naturalmente risplende in questo mondo di tenebre, il cristiano fa la volontà di Dio, ma il cristiano sa che il mondo è destinato ad andare di male in peggio. Considerate che persino la Chiesa passerà un periodo in cui appunto molti apostateranno dalla fede. Quindi considerate poi voi quanto la malvagità è destinata ad aumentare in questo mondo, ma la malvagità sta aumentando anche in mezzo alle chiese, quello che una volta tante chiese consideravano peccato, oggi non è più peccato. Per esempio l'omosessualità, facciamo un esempio, ma stiamo parlando della chiesa qua. Allora, una volta molte chiese consideravano, o meglio, tutte le chiese consideravano, le chiese evangeliche, consideravano l'omosessualità peccato. Adesso è difficile trovare una chiesa evangelica che pubblicamente dica che l'omosessualità è peccato, è cosa abominevole agli occhi di Dio. Gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio, andranno all'inferno. Cioè è raro trovare veramente chi con coraggio e con franchezza denuncia il peccato dell'omosessualità, che è uno dei più diffusi, come naturalmente anche il peccato della fornicazione, dell'adulterio, della menzogna. Insomma, oggi ci sono molti peccati che tante chiese non denunciano, perché sono così corrotte, così malvagie, che oramai, diciamo, sono l'altra faccia del mondo. Ci sono cosiddetti evangelici che quando li incontri, li senti parlare, sembrano veramente persone proprio del mondo, né più né meno. D'altronde lo sappiamo che molti sono evangelici, ma non sono nati da Dio, in quanto sono ancora morti nei loro falli e nei loro peccati. ancora sono sotto la potestà delle tenebre e quindi non c'è da meravigliarsi che, benché si dicono evangelici, parlano, agiscono come appunto coloro che sono del mondo. Dunque, il mondo è malvagio, le opere del mondo sono malvagie. Ora, Gesù che cosa ha detto? Ha detto questo: odia me, cioè il mondo odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Allora, badate bene alle parole di Gesù, perché Gesù in queste parole ha detto tanto. Ha detto che l'odio del mondo verso di lui è dovuto al fatto che lui testimonia del mondo che le sue opere sono malvagie. Ora vi faccio questa domanda: avete notato che coloro che parlano bene delle opere del mondo non sono odiati dal mondo? L'avete notato questo? Infatti, basta vedere tante chiese non sono odiate dal mondo perché non testimoniano del mondo che le sue opere sono malvagie, anzi che sono buone. E infatti stiamo vedendo proprio tante chiese camminare a braccetto col mondo proprio per questa ragione. Sono diventate amiche del mondo. Amiche del mondo perché considerano le opere del mondo opere buone, opere belle. Non condannano le opere del mondo, ma le approvano, e quindi approvando le opere del mondo ci hanno anche l'approvazione del mondo. Ma badate bene che chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. L'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio, non dimenticatevelo mai. Ecco perché queste chiese amate dal mondo, attenzione, amate dal mondo, queste chiese amate dal mondo sono detestate da Dio. Perché? Perché appunto sono queste chiese nemiche di Dio, nemiche. Guardate, Giacomo è stato chiaro. E le parole di Giacomo risuonano del continuo nelle mie orecchie. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E quanti oggi vogliono rendersi, si rendono amici del mondo? Ma oramai sono in tantissimi. Coloro che appunto per farsi amici del mondo si rendono nemici di Dio. Ora, queste chiese amiche del mondo non possono essere odiate dal mondo, perché sono date alle stesse opere del mondo. Le compiono e anche le approvano e difendono. Quindi il mondo è dalla loro parte. Ecco perché poi queste chiese corrotte fino alle midolle ci vengono contro. Ah, ma a te non ti va mai bene niente, ma tu ce l'hai contro tutti. Quante volte mi sono sentito ripetere queste parole da gente corrotta. Gente che non testimonia del mondo che le sue opere sono malvagie. Gente che è amata dal mondo. Io sono odiato dal mondo. Per la stessa ragione per cui era odiato Gesù, perché io testimonio del mondo che le sue opere sono malvagie. Il mondo non mi ama. Mi ama Dio però, e questo mi basta. So di essere amato da Dio, come anche so di essere amato da coloro che sono nati da Dio. Già, perché per amare bisogna essere nati da Dio. Chi non ama rimane nella morte. Ricordatevelo questo. Dunque, il mondo non può odiare voi, Gesù disse ai suoi fratelli, che a quel tempo non credevano in lui, ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Allora vedete, Gesù, che era il santo, il giusto, colui che non ha conosciuto peccato, benché in ogni cosa sia stato tentato come noi, però egli non peccò mai. Ebbene, lui che andò attorno facendo del bene, soltanto del bene. Gesù non fece del male a nessuno. Gesù andò attorno facendo del bene. Ebbene, Gesù, il figlio di Dio, fu odiato dal mondo ed è tuttora odiato dal mondo. Io talvolta, mentre leggo Matteo, Marco, Luca, Giovanni, mentre leggo veramente che Gesù dà la vista a un cieco, che Gesù libera un indemoniato, che Gesù guarisce un paralitico, dico: ma guarda Gesù, quanto bene che fece. Eppure il suo bene fu contraccambiato con il male. Arrivò il giorno che davanti a Pilato il popolo dei giudei gridò: crocifiggilo, crocifiggilo. E Pilato disse: ma che male hai fatto? Veramente, ma Gesù che male aveva fatto? Gesù non fece alcun male. Gesù era buono e faceva del bene. E lo faceva gratuitamente, senza farsi pagare. Non faceva passare il cestino delle offerte dopo le sue predicazioni o prima delle sue predicazioni. Non diceva ai suoi discepoli: portatemi le vostre decime. No, non l'ha mai detto. Gesù amava Dio ed era amato da Dio. Gesù non amava il denaro, non lo amava e lo ha dimostrato. Eppure fu odiato, ma fu odiato per una ragione ben precisa, perché lui appunto testimoniava del mondo che le sue opere erano malvagie, perché anche al tempo di Gesù le opere del mondo erano malvagie. Alcuni, quando vedono la malvagità di oggi, pensano: ma chissà, forse ai tempi di Gesù era diverso. No, no, non è che era diverso, nella maniera più assoluta. Il mondo, anche ai giorni di Gesù, anche ai giorni di Gesù, il mondo giaceva tutto quanto nel maligno. Infatti Gesù ebbe una grande opposizione da parte di quelli del mondo. Dunque il mondo odia Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Allora, il mondo odiò Gesù e manifestò il suo odio nei suoi confronti in tante maniere. Considerate che cercarono di ucciderlo più volte, ma non ci riuscirono perché non era ancora arrivato il suo tempo, il tempo stabilito da Dio. Perché naturalmente Gesù doveva morire in un preciso momento, come anche in una precisa maniera. Non doveva morire, per esempio, lapidato, doveva morire trafitto, crocifisso. E difatti così avvenne. Doveva morire a Gerusalemme, non poteva morire, diciamo, che vi posso dire io, a Betlemme o a Nazareth, doveva morire a Gerusalemme. Dunque Gesù scampò alla morte diverse volte. Vi ricordate per esempio, a Nazareth che cosa avvenne dopo che Gesù tenne quel discorso nella sinagoga? C'è scritto: tutti nella sinagoga furono ripieni d'ira all'udire queste cose, e levatesi lo cacciarono fuori della città e lo menarono fin sul ciglio del monte, sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Questo all'inizio del suo ministero. Considerate dunque, cercarono proprio di farlo fuori, Sì, perché secondo i giudei Gesù non era degno di vivere. Poi sapete che altre volte i giudei presero delle pietre per lapidarlo. Una volta presero le pietre per lapidarlo, dopo che gli sentirono dire: io e il Padre siamo uno, perché con quelle parole Gesù dichiarò di essere Dio. Anche quando Gesù disse ai giudei, prima che Abramo fosse nato, io sono, anche lì avvenne che coloro che appunto erano lì e lo sentirono, che erano giudei, presero delle pietre per tirargliela. Ma la scrittura dice: ma Gesù si nascose ed uscì dal Tempio. Dunque era veramente odiato. Naturalmente, come voi sapete, Gesù fu perseguitato dai giudei perché chiamando Dio suo padre, lui si faceva uguale a Dio. E l'abbiamo visto quando appunto disse: io e il Padre siamo uno, che i giudei presero delle pietre per lapidarlo. Ma vi ricordo anche che Gesù fu perseguitato dai giudei perché secondo i giudei Gesù violava il sabato. In che maniera? Secondo i giudei Gesù violava il sabato perché di sabato compiva delle guarigioni, quindi perché compiva del bene. Ma secondo la legge di Mosè, nel giorno di sabato ogni giudeo poteva fare del bene. Poteva fare del bene. Solo che il bene che Gesù faceva di sabato lo presero come violazione praticamente della legge mosaica sul sabato, perché voi sapete che di sabato l'uomo non poteva lavorare. E quindi loro considerarono Gesù uno che violava il sabato e quindi uno che era degno di morte, come anche lo reputavano degno di morte perché chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Ma quello che io appunto su cui vorrei soffermarmi, vi ho infatti detto che l'odio del mondo, che poi fu l'odio dei giudei, si manifestò in diverse maniere. Una di queste maniere, appunto, sì, cercarono di ucciderlo, fu calunniandolo. Gesù fu molto calunniato dai giudei. Negli scritti di Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono trascritti diverse di queste calunnie, di queste false accuse che appunto il mondo gli lanciò contro. Ed è importante considerare le false accuse che lanciarono contro Gesù, perché per capire che l'odio di qualcuno verso di noi si manifesta anche con false accuse. Chi ti accusa falsamente di una cosa che tu non hai pensato, non hai detto e non hai fatto, qualcosa che tu non sei, quell'uomo, quella donna ti odia. Devi essere certo di questo, cioè quelle false accuse che gli escono dalla bocca provano l'odio di quella persona verso di te, come le false accuse che il mondo lanciò contro Gesù Cristo sono prova dell'odio del mondo verso Gesù. Vediamone alcune di queste calunnie. Beh, una delle più conosciute è quella appunto che Gesù cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù. Vi ricordate infatti cosa c'è scritto in Matteo? Dice la scrittura, capitolo 12, allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto ed egli lo sanò, talché il muto lo parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano: non è costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. In altre parole, il mondo accusò falsamente Gesù di cacciare i demoni per l'aiuto di Satana. Ma Gesù cacciava cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio. Vedete fino a che punto l'odio del mondo si spinse? Bisogna considerarle queste false accuse, perché ancora oggi è la stessa cosa. In un'altra circostanza Gesù fece sapere quale una calunnia che gli veniva lanciata. Al capitolo 11 di Matteo c'è scritto che Gesù disse queste parole: difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo, e dicono a un demonio: è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo, e dicono: ecco un mangione, un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ecco, questa fu un'altra falsa accusa che gli lanciarono contro quelli che lo odiavano, che erano persone del mondo. Lo accusarono di essere un mangiatore ed un beone. Pensate, cosa dissero di Gesù, il Santo. E gli dissero anche che era un amico dei pubblicani e dei peccatori, Diciamo che oggi sarebbe come dire un amico dei mafiosi, capito? O degli andranghetisti o dei camorristi, un amico dei delinquenti, amico proprio. Ebbene, vedete di Gesù cosa dissero? Anche questa è una calunnia. D'altronde, il mondo giace tutto quanto nel maligno. Il maligno è il diavolo, e il diavolo viene da il termine diavolo viene da una parola greca che è diabolos, che significa calunniatore, accusatore. Quindi non c'è da meravigliarsi se coloro che sono del mondo, che sono figlioli del diavolo, appunto, proferiscano queste false accuse contro il giusto. Quindi Gesù non era un mangiatore, non era un beone e non era un amico dei pubblicani e dei peccatori. Perché Gesù non era amico del mondo. Ricordatevi che quando oggi tanti pastori dicono: ah, Gesù era l'amico dei pubblicani e dei peccatori, stanno dicendo una calunnia contro Gesù, perché dire che Gesù è un amico dei pubblicani e dei peccatori equivale a dire che Gesù è un amico del mondo. Capite? Quindi un nemico di Dio. Ci sono tanti che non riescono nemmeno a capire l'italiano. Il problema oggi in molte chiese, che non è che, molti non capiscono, solo le scritture, ed è grave questo, ma ci sono proprio molti che non capiscono neppure l'italiano. Gli devi fare proprio anche una lezione di italiano talvolta a certuni, perché non capiscono nemmeno l'italiano. Leggono senza capire. Allora, Gesù non era un amico del mondo. Credo che la sua vita lo testimoni abbondantemente, ampiamente. Infatti Gesù che cosa ha detto? Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. Certo, perché il mondo lo accusò, lo calunniò. Però, vedete, la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, perché poi, alla fine, le opere giuste, le opere sante, le opere buone, testimoniano di quello che uno è. E quindi, vedete, la sapienza è stata dichiarata giusta dalle opere sue. Quindi, alla fine, Gesù è stato giustificato nello spirito, perché da un lato è stato calunniato, ma dall'altro è stato giustificato nello spirito. Infatti oggi noi chiaramente parliamo di queste calunnie che il mondo lanciò contro Gesù, sapendo che appunto si tratta di calunnie. Però è bene che noi parliamo di queste calunnie, che sono una manifestazione di odio verso Gesù, per comprendere tante cose. Ora, questa appunto una calunnia. Poi, per esempio, ci furono altri che lo definirono, per esempio, un peccatore, pensate un po' voi, eh? E questo fu in occasione della guarigione del cieco nato, Perché quando lo chiamarono per la seconda volta il cieco nato, che voi sapete che aveva ricevuto la vista da Gesù, gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore. Quell'uomo naturalmente era Gesù, secondo loro. Allora il cieco che aveva recuperato la vista disse: se egli sia un peccatore non so, ma una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Ora, considerate bene questo: Gesù fu accusato di essere un peccatore. Ora, forse alcuni non hanno ben chiaro la parola peccatore. Che cosa comporta? Qual sia il significato? Cioè, un peccatore è un uomo schiavo del peccato, un uomo signoreggiato dal peccato, un uomo che viola la legge di Dio, quindi. Perché? Perché il peccato è la violazione della legge. Allora, in questa maniera, accusarono falsamente Gesù, costoro, di essere uno che era signoreggiato dal peccato, che commetteva il peccato e quindi era schiavo del peccato. Vi rendete conto? Rendetevi conto l'odio che veramente avevano nel cuore, appunto, coloro che appunto gli erano nemici, che lo odiavano. Gesù il giusto, colui che non ha conosciuto peccato, è stato accusato di essere un peccatore. Ditemi voi, fratelli, giudicate voi da persone intelligenti. Poi ci furono coloro un'altra falsa accusa, che secondo cui Gesù traviava la moltitudine e quindi seduceva le persone. E questo lo troviamo al capitolo 7 di Giovanni, dove siamo partiti. Dice così, capitolo 7, versetto 10. Quando poi i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è egli? E v'era fra le turbe gran mormorio intorno a lui. Gli uni dicevano: è un uomo da bene, altri dicevano: no, anzi, travia la moltitudine. Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Ora notate qui che da un lato c'erano giudei che dicevano: ma è una brava persona, è un uomo da bene. Quindi questo cosa significa? Significa che ci sono talvolta delle persone del mondo che rendono testimonianza di noi, che siamo delle persone da bene, e questo in base naturalmente a quello che loro vedono farci e anche ci sentono dire. Quindi non ci dobbiamo meravigliare se talvolta sentiamo uscire dalla bocca di persone che sono dei peccatori frasi come: ma è una brava persona. È una brava persona, fossero tutti come lui, è un uomo buono, è un uomo di pace, non è che ci dobbiamo meravigliare. Di Gesù dicevano alcuni: è un uomo da bene. Altri però dicevano: no, anzi, travia la moltitudine. Ecco, per costoro, che appunto lo odiavano, Gesù era un seduttore. Uno che seduceva le persone, quindi siccome che per sedurre le persone ci vuole astuzia, ritenevano che Gesù usasse l'astuzia per sedurre le persone. Vi ricordate infatti, dopo che Gesù fu seppellito, che cosa c'è scritto? L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli, non vengano a rubarlo e dicono al popolo: è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Avete notato? Gesù era morto. Però dissero: ci siamo ricordati che quel seduttore, pensate un po' voi, come lo accusavano a Gesù di sedurre le moltitudini e quindi di usare l'astuzia, perché chi seduce usa l'astuzia. Allora considerate voi, fratelli del Signore, considerate queste cose, consideratele attentamente. Poi ci furono anche coloro che lanciarono contro Gesù quest'altra falsa accusa, che è particolare, è trascritta in Luca. Quando Gesù fu menato a Pilato, sapete, Gesù fu prima condannato a morte dal Sinedrio e poi per bestemmia, perché fu ritenuto degno di morte perché aveva bestemmiato secondo loro in quanto aveva affermato di essere il Cristo, il figliolo di Dio. Allora, dopo, naturalmente, l'assemblea lo menò a Pilato, che era il governatore della Giudea. Ascoltate cosa c'è scritto, capitolo 23 di Luca. E cominciarono ad accusarlo dicendo: abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione, che vietava di pagare i tributi a Cesare, e diceva di essere lui il Cristo re. Allora, avete capito? Avete capito che cosa avevano messo in giro, quale falsa accusa avevano messo in giro contro Gesù? Che lui vietava di pagare i tributi a Cesare. Ma come? Era proprio il contrario. Gesù invece aveva esortato a pagare il tributo a Cesare. Infatti, quando un giorno i farisei gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani, per coglierlo in parole, e gli fecero questa domanda a costoro: è illecito pagare il tributo a Cesare o no? Notate la domanda fu precisa. Ascoltate però cosa c'è scritto. Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro, ed egli domandò loro: di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora gli disse loro: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e lasciatolo, se ne andarono. Allora notate come Gesù disse di rendere a Cesare quello che è di Cesare. Che cos'è di Cesare? Che cos'è di Cesare? Il tributo. Quindi Gesù esortava a dare il tributo a Cesare, però vedete il mondo. Vedete, lo accusò, quelli del mondo lo accusarono lo accusarono che lui praticamente vietava di pagare il tributo a Cesare. Allora, le parole esatte sono: vietava di parlare di pagare i tributi a Cesare. Ma ditemi voi, qualcuno dirà, com'è possibile? Ma l'odio verso Gesù portava a questo, a torcere le sue parole, a far dire a Gesù il contrario di quello che lui diceva. Capite? E guardate che ancora oggi l'odio verso Gesù si manifesta nella stessa identica maniera. Non pensate che queste false accuse siano svanite. No, no, ci sono ancora oggi. Ci sono ancora oggi coloro che lo accusano di queste cose, ma oggi, diciamo, veramente a Gesù viene attribuita, per esempio, la dottrina della reincarnazione, per esempio. No? Sapete che ci sono quelli che dicono che Gesù insegnava la reincarnazione, considerate un po' voi. Gesù insegnava la resurrezione e questi dicono che insegnava la reincarnazione, ma perché odiano Gesù. Allora, perché ho voluto parlarvi, diciamo, di queste calunnie che appunto il mondo lanciò, o quelli del mondo lanciarono contro Gesù, queste false accuse? Perché, come vi ho detto, l'odio si manifesta anche in questa maniera, calunniando. L'odio di una persona si manifesta anche calunniando il suo prossimo. La lingua bugiarda odia chi ha ferito. Ricordatevelo questo. Chi proprio si inventa false accuse contro di voi, chi testimonia il falso contro di voi, sappiate che lo fa perché vi odia. Quelle menzogne che gli escono dalla sua bocca, che vengono dal cuore, testimoniano, proprio testimoniano di lui che è un malvagio. Infatti tira fuori quelle cose malvagie dal suo malvagio tesoro. Infatti, se io vi domandassi, ma coloro che proferirono quelle cose malvagie contro Gesù, da dove tirarono fuori quelle cose malvagie? Dal loro cuore, quindi il loro cuore era malvagio. La stessa cosa avviene oggi, ma badate bene, non solamente le cose malvagie appunto che ancora oggi le persone del mondo dicono contro Gesù, vengono dal loro cuore malvagie, ma anche le cose malvagie che tanti che si dicono cristiani dicono contro di noi. Naturalmente questi qua, sto parlando di persone che si dicono cristiani ma che non sono nati da Dio, però si presentano come cristiani evangelici, ma non sono nati da Dio, sono signoreggiati dal peccato e vivono una vita al servizio del peccato, sono in mezzo alla Chiesa e dissimulano il loro odio verso i giusti, lo dissimulano, lo mascherano. È un odio però che poi a suo tempo si manifesterà nell'assemblea. In che maniera? Con false accuse. Quando il loro odio si manifesta, allora si manifesta con false accuse, si inventano contro di te cose che non sono mai avvenute, cose che tu non hai mai detto, cose che tu non hai mai pensato, perché questi qua addirittura ti accusano di avere pensato delle cose, cioè rendetevi conto, l'odio a che cosa porta? Sì, porta proprio a questo. L'odio porta a calunniare, ma poi le false accuse naturalmente si manifestano per quelle che sono, perché le false accuse, come ogni falsa accusa naturalmente, vengono smascherate, perché sono bugie, sono menzogne, però c'è sempre qualcuno che le accetta. Come mi disse una volta un mostro, poi ho scoperto che era un mostro, mi fece una lezioncina, pensate un po' voi, si spacciava per amico mio, ma era un mostro, mi odiava, però l'ho scoperto dopo tanti anni. Un giorno mi fece uno strano discorso, uno dei suoi strani discorsi che mi lasciavano perplessi, e mi fece il discorso sulla calunnia. Mi fece un discorsetto, una piccola lezioncina sulla calunnia. Naturalmente lui, astutamente, prese come esempio le calunnie che mi venivano lanciate, ma io non sapevo che lui di nascosto mi calunniava, capite? Cioè lui pubblicamente voleva far credere che mi difendeva dalle calunnie, però poi nella sua cerchia lanciava le calunnie. Lanciava le calunnie contro di me. D'altronde le persone doppie sono fatte così. Qualcuno si sorprende talvolta che io racconto certe cose accadutemi, ma le cose stanno così, le persone doppie sono così, davanti ti elogiano e praticamente alle spalle si dicono le cose peggiori contro di te. Sono persone doppie. Quando qualcuno di voi incontrerà una persona doppia, poi penserà a quello che gli dico io e dirà: avevi ragione Giacinto, avevi ragione, io a quel tempo non capivo che la doppiezza potesse essere tale, così, sì, è proprio così. Ebbene, questo mostro, perché tale si è manifestato davanti al mondo, davanti alla Chiesa, un giorno mi fa questo discorso sulla calunnia. E mi ricordo che a un certo punto parlò del venticello della calunnia. Ma devo dire che era una cosa nuova per me. Cioè io rimanevo un po' a sentirlo parlare. Diceva, sai Giacinto, la calunnia è come un venticello. E poi mi disse, mi ricordo ancora, sai fa, la calunnia c'è sempre qualcuno che l'accetta. Infatti poi, quando lui si è manifestato, ha manifestato il suo odio pubblicamente verso di me, che ha cominciato a calunniarmi, poi le sue calunnie hanno attecchito in quel terreno, naturalmente, su cui attecchiscono le calunnie, è il terreno dei doppi, fatto di doppi, di bugiardi, di gente strana, di gente veramente che vive una vita nell'ombra, nelle tenebre, di gente ansiosa, paranoica, gente che veramente... chi li conosce lo sa come sono, solamente che chi non li conosce su internet naturalmente leggono i post e i commenti di costoro, pensano chissà cosa sono, ma chi li conosce sa che questi veramente sono dei serpenti, chi li ha conosciuti. Ebbene, mi è rimasta impressa questa cosa, perché dopo a distanza di tempo ho detto, adesso ho capito, perché mi fece questa lezioncina sulla calunnia? Perché lui conosceva bene l'arte della calunnia e poi naturalmente l'ha manifestata davanti al mondo, ma le sue calunnie naturalmente sono state tutte smascherate e solamente i calunniatori come lui, i bugiardi come lui, i doppi come lui possono credere appunto alle sue false accuse. Ancora, dopo che sono state, diciamo, smascherate. Ma che volete? Come mi disse appunto il mostro, qualcuno, Giacinto, che crederà alla calunnia ci sarà sempre. E già, è vero, ha ragione, ci sarà sempre. Eh sì, e infatti dove si trovano costoro? Dietro i calunniatori. Comunque vi ho voluto raccontare questo, perché sapete, io medito molto su quello che mi accade, sono sempre stato una persona riflessiva, una persona che ha riflettuto, diciamo, sulle cose che gli sono accadute, perché so che ciò che mi accade non è che mi accade per caso, ma mi accade per il determinato consiglio di Dio. Come naturalmente le cose che sono avvenute nella vita di Gesù non è che avvennero casualmente, ma per il determinato consiglio di Dio. Allora io voglio dire, c'ho una vita, c'ho un passato, c'ho un presente, chiaramente io esamino, medito su quello che mi è avvenuto e su quello che mi avviene. Ed effettivamente poi, confrontando tutto con le Sacre Scritture, analizzando tutto alla luce delle Sacre Scritture, veramente non posso non riconoscere che la parola di Dio è verità. E talvolta ci domandiamo, ma come mai il Signore fa accadere certe cose nella nostra vita? Sul momento non lo comprendiamo, ma poi col passare del tempo si capisce. E io, per esempio, dalle calunnie che mi sono state lanciate, che mi lanciano ancora oggi, no? I mostri, io ho compreso e sto comprendendo tante cose e ringrazio Dio, lo ringrazio veramente di cuore per avere fatto manifestare questi mostri, questi serpenti, perché ho imparato delle lezioni molto importanti, ho imparato tante cose e quello che io imparo lo trasmetto a voi. E quindi vedete che alla fine tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Ed è sempre una gioia, ed è sempre una gioia per me trasmettervi veramente ciò che Dio mi fa intendere, ciò che è in accordo con la sua volontà, con la sua parola. E talvolta naturalmente prendo come esempio quello che mi è accaduto, quello che mi accade, perché io naturalmente poi confronto il tutto con quello che dice la parola di Dio. Io generalmente quando mi accade qualcosa vado a vedere se nella Bibbia qualcosa è successo a qualcun altro prima di me. Allora quando poi scopri che naturalmente quello che ti è accaduto è accaduto ad altri prima di te, dici, beh, allora veramente c'è un piano. C'è un piano meraviglioso che è il piano di Dio, un piano, un disegno benevolo, un disegno meraviglioso, che naturalmente col passare del tempo si va sempre più, come si dice, rivelando per quello che è, un piano divino perfetto, perfetto, guardate, i piani di Dio sono perfetti. sul momento puoi anche non capire, puoi anche rimanere perplesso, ma col passare del tempo poi il Dio ti fa capire. Ti fa capire le cose, quando tu capisci le cose dici: Signore Dio, tu sei grande, nessuno è pari a te. E quindi ho voluto naturalmente parlarvi dell'odio del mondo verso Gesù Cristo. Perché? Perché naturalmente l'odio del mondo non è solo verso Gesù, ma anche verso di noi che siamo suoi discepoli. D'altronde, vi ricordate Gesù cosa disse? Queste sono parole che veramente dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo, ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Perché ci odiano costoro? Perché? Perché noi siamo stati scelti da Gesù di mezzo al mondo. Perché noi siamo di Gesù, noi siamo del Cristo di Dio, gli apparteniamo, capite? E allora il mondo ci odia. E proprio perché apparteniamo a Gesù, che noi appunto non siamo più del mondo e testimoniamo del mondo, che il mondo appunto, che le opere del mondo sono malvagie. D'altronde ci ha scelti di mezzo al mondo, noi non siamo del mondo. E allora il mondo ci odia. E badate bene, quando parliamo di mondo intendiamo appunto coloro che sono del mondo e che sono al servizio del peccato. Quindi anche di tutti quegli evangelici che sono sotto il peccato, che sono del mondo, che non sono stati affrancati dal peccato. E quindi non servono la giustizia, anche costoro fanno parte del mondo, anche se portano la casacca di evangelico, capite? Non vi fate ingannare dalla casacca, Sì, si chiama evangelico, ma agli occhi di Dio è uno del mondo, serve il peccato, è signoreggiato dal peccato, ecco perché non può fare a meno di calunniare chi è di Cristo. Non può fare a meno di dire menzogne contro chi è di Cristo. Fratelli nel Signore, le cose stanno così. Quindi fatevi animo, perché come appunto il mondo ha odiato Gesù e odia tutto Gesù, il mondo odia anche noi. E naturalmente questo ci produce tribolazione. Infatti, dice Gesù, nel mondo avrete tribolazione. Fatevi animo, io ho vinto il mondo. Attenzione, perché il mondo sì ci odia, il mondo ci calunnia, ma noi abbiamo vinto il mondo. L'abbiamo vinto in Cristo Gesù, perché Lui ha vinto il mondo. Noi siamo più che vincitori, ricordatevelo sempre questo, Sempre! Infatti è scritto che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E chi è colui che ci ha amati? Il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio al quale noi apparteniamo. Naturalmente appartenere a Gesù significa essere odiati dal mondo, perché chiaramente noi siamo il corpo di Cristo e il corpo di Cristo testimonia. Come fa il suo capo, testimonia del mondo che le opere del mondo sono malvagie. E allora? Ma perché noi lo testimoniamo? Ma perché noi eravamo del mondo, poi il Signore appunto ci ha scelti di mezzo al mondo e adesso siamo di Gesù. E quindi noi testimoniamo delle opere del mondo che sono malvagie. E il mondo ci ascolta, e ricordatevi che in quel mondo ci sono anche tanti evangelici, questo del mondo fanno parte tanti evangelici, e allora il mondo si scaglia contro di noi e ci calunnia. E ci calunnia in tante maniere. Ma noi dobbiamo essere forti, fratelli. Essere forti, rimanere saldi nella fede e nella verità, non ci dobbiamo assolutamente lasciare spaventare dalle calunnie dei nostri avversari. Come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché o che io venga a vedervi o che io sia assente, oda di voi che state fermi in uno stesso spirito combattendo assieme ad un medesimo animo per la fede del Vangelo e non essendo per nulla spaventati dagli avversari, il che per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, nella quale ora udite che io mi trovo. Quindi vedete, il fatto di rimanere fermi nella fede, nella verità, il fatto di stare fermi in un medesimo spirito, combattendo assieme di un medesimo animo per la fede del Vangelo, e il fatto di non essere proprio per nulla spaventati dagli avversari, per loro, cioè per quelli del mondo, è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. Ecco perché quelli del mondo sono presi da tremito, da paura, da terrore, quelli che ci calunniano, perché appunto la nostra condotta, il nostro modo di parlare, fermo, sicuro, per loro è una prova evidente di perdizione. Quindi quelli del mondo vanno in perdizione. La fine di costoro è la perdizione. Quindi, ma dice però anche, ma per voi di salvezza, vedete? Per noi è prova di salvezza! Siamo salvati. E ringraziamo il Signore per questa così grande salvezza. Per questa così grande salvezza che il Signore ci ha dato. Ringraziamolo sempre, il Signore. Quindi, fratelli del Signore, non vi perdete d'animo dinanzi a coloro che, dinanzi al mondo che vi odia, dinanzi al mondo che vi calunnia. Non perdetevi d'animo. Il Dio è con coloro che sono di Cristo e li onora, li protegge, li sostiene e gli fa giustizia. Quindi di che dobbiamo avere paura? Di chi dobbiamo avere paura? Di chi dobbiamo avere paura? Temiamo e Dio. Egli è tremendo. E osserviamo i suoi comandamenti. Studiamoci di fare la volontà di Dio. Fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.